e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti e ben trovati da Deborah Rosciani in diretta con Cuore e Denari anche questa mattina. Non c'è Nicoletta, ci collegheremo però con lei a partire dalle 11.30 perché sta seguendo a Milano un appuntamento molto importante. Oggi è la giornata mondiale senza tabacco e Nicoletta Carbone sta coordinando all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano proprio questa iniziativa. Ne parleremo direttamente con lei, ma per la prima ora della nostra trasmissione ci occuperemo di altro perché oggi a Roma c'è un appuntamento molto importante. Ci sono le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Dati i vari fronti bancari problematici ancora aperti in Italia e a cui guardano con comprensibile preoccupazione migliaia di famiglie italiane, ci è sembrato utile questa mattina sentire in diretta alcuni passaggi della relazione del governatore, da cui ci aspettiamo naturalmente anche alcune considerazioni, alcuni commenti su questi temi. E commenteremo le considerazioni appunto del governatore Visco insieme ad alcuni ospiti. In particolare ci soffermeremo per fare un punto della situazione sulle vicende e le questioni in cui versano le due venete, intanto Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ma rifaremo un punto anche sulle ultime notizie di Banca Monte dei Paschi. E faremo un punto sugli strascichi, tra virgolette, che ci sono ancora per gli ex obbligazionisti delle quattro banche risolte, Etruria, Marche, Chieti e Ferrara. Quindi, naturalmente, per tutti questi argomenti, 800 24 00 24 è il numero che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta, di interagire con noi, con i nostri ospiti di questa mattina. Sentiremo live, come vi anticipavo, anche alcuni passaggi della relazione del governatore, ma anche se le agenzie stanno già anticipando alcuni passaggi della relazione che era probabilmente sotto embargo fino alle 10.30, adesso è stata disimbargata, non so se si dica correttamente così, ma intanto il governatore non ha ancora iniziato a parlare. Sto vedendo proprio il live sul sito della Banca d'Italia. Vi presento intanto gli ospiti con cui questa mattina commenteremo la relazione di Visco, ma non solo. Maria Pierdicchi, oggi consigliere indipendente delle quattro nuove banche, Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Cariferrara, già numero uno di Standard & Poor's Italia, benvenuta, buongiorno e grazie. Grazie, buongiorno a voi. E Nicola Borsi di Plus 24, il Sole 24 Ore, coordinatore dell'inserto del sabato dedicato al risparmio e non solo del Sole 24 Ore. Nicola, benvenuto. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, vedo qua dei filmati dei passaggi istituzionali dal sito della Banca d'Italia, quindi Visco non ha ancora iniziato a parlare, ma è peraltro un appuntamento molto importante per il governatore perché è anche in vista il termine del suo mandato che si chiude alla fine di ottobre, ma si discute già molto sulla sua successione che avverrà praticamente in contemporanea con il rinnovo del vertice della Consob, l'autorità di vigilanza sulla borsa. Ed è un passaggio fondamentale la eventuale designazione di un nuovo governatore della Banca d'Italia, perché in realtà alla luce anche delle complicazioni politiche di questi giorni, magari Nicola possiamo già commentare questo passaggio, o Visco viene riconfermato proprio per dare una sorta di continuità in attesa che si risolvano le beghe politiche italiane, oppure in realtà se si va ad elezioni anticipate, magari, che ne so, un nuovo esecutivo potrebbe addirittura chiudere l'era Visco per chiamare, insomma, sullo scranno di Banca d'Italia una persona completamente nuova, insomma scenari completamente aperti. Però insomma una figura anche molto contestata dalle associazioni dei consumatori proprio per le vicende che ricordavamo prima. Si è accusato molto Banca d'Italia di non aver vigilato a sufficienza. Sì, diciamo che è un passaggio fondamentale. Molti danno ormai per scontata la riconferma di Ignazio Visco sul posto di governatore di Banca d'Italia. Devo dire che dal punto di vista di coloro che osservano il risparmio e il ruolo che Banca d'Italia ha fondamentale nella gestione degli istituti di credito, dal punto di vista di quella che una volta era la vigilanza, che oggi non c'è più perché è passata per gli istituti maggiori in capo alla BCE ormai da anni, sì. Però diciamo dal punto di vista anche della moral suasion nei confronti del settore bancario, c'è stata secondo molti in questi anni una insufficiente capacità della vigilanza prima e poi della Banca d'Italia in generale, e comunque una insufficiente capacità di far rispettare l'articolo 47 della Costituzione che tutela il risparmio e indirizza l'esercizio del credito. Allora intanto così mi dispiace un po' anticipare il contenuto della relazione di Visco, che però viene già anticipato come dicevo prima da parte delle agenzie, mentre la relazione ufficiale non è ancora iniziata. Però vedo già in anticipo che in realtà ci sono molte considerazioni che riporterà direttamente il governatore ulteriore fra qualche istante sul tema molto importante, sul grosso fardello che adesso grava sulle spalle delle banche italiane. Parliamo degli NPL, non performing loans, i pacchetti di crediti deteriorati, appunto, che è un problema rilevantissimo per il sistema bancario italiano. Vi leggo allora già in anticipo una dichiarazione di Visco: la cessione dei crediti deteriorati delle banche è una via obbligata per riguadagnare la fiducia dei mercati e recuperare redditività. Ma, dice Visco, la vigilanza è consapevole della necessità di non forzare politiche generalizzate di vendita che conducono di fatto ad un trasferimento di risorse delle banche italiane a pochi investitori specializzati. Allora, Nicola, quando parliamo di questo che abbiamo ribattezzato fardello, di che numeri stiamo parlando? Ma parliamo in termini generali di un montare di sofferenze che si avvicinano agli 80 miliardi netti, 200 miliardi complessivi, poi sono a livello di sistema quelli lordi che comprendono anche altre situazioni di crediti incagliati. Qui in realtà a fare la differenza che cos'è? È il prezzo di cessione di queste sofferenze, perché in funzione del prezzo di cessione l'operatore che va a comprare le sofferenze per poi andare a esercitare i crediti e quindi andare a riscuotere materialmente questi crediti può ottenere delle plusvalenze veramente, veramente importanti. Alcune esperienze passate nella realizzazione delle sofferenze di tipo bancario hanno portato a livelli di realizzo nell'ordine dell'80-90%, quindi è chiaro che se si comprano sofferenze a livelli del 18-20% come quelli che hanno riguardato le quattro banche che sono state risolte il 22 novembre nel 2015, nella valutazione che fu fatta al momento della risoluzione, si creano dei margini di plusvalenza enormi, e proprio attraverso questi margini di plusvalenza si dà la possibilità ai soggetti che entrano nel mercato delle sofferenze di potersi andare a comprare pezzi del sistema, facendo fare le spese di questa operazione al sistema stesso. Allora, adesso sentiremo Maria Perdicchi su questo tema, sul quale è stata direttamente chiamata in causa appunto per il ruolo proprio che riveste adesso, però la relazione di Visco è iniziata, allora iniziamo a sentire il primo passaggio delle sue considerazioni. Un uomo che ha creduto fermamente nei valori portanti della democrazia e nell'Europa unita. Sta esprimendo un ricordo di Ciampi, il governatore Visco. Restano i principi che hanno ispirato il suo modo di operare: senso del dovere, rispetto dell'alterità, consapevolezza delle responsabilità. Carlo Azeglio Ciampi, che è stato pure cosa significa governatore, servire l'interesse generale, il riferimento costante di tutta la sua vita. In prima fila, peraltro, a sentire la relazione di Visco, vedo Mario Draghi, attuale numero uno della Banca Centrale Europea, c'è Mario Monti, ci sono molti esponenti politici, intanto il primo applauso. Parte la relazione, sentiamo. Negli ultimi sei anni, gli interventi di politica monetaria mirati a contrastare la crisi finanziaria, quella dei debiti sovrani e i rischi di deflazione hanno inciso profondamente sulla dimensione e sulla struttura del bilancio della Banca d'Italia. L'attivo è aumentato di oltre 400 miliardi. Sì, la prima parte della relazione è generalmente dedicata proprio allo stato dell'arte del bilancio della Banca d'Italia. Direi che magari spiegando per adesso gli effetti del quantitative easing sul bilancio della Banca d'Italia, perché sappiamo che c'è poi un trasferimento titoli dalla Banca d'Italia verso la BCE e dalla BCE verso la Banca d'Italia. Benissimo, allora magari forse questo non è proprio il tema di maggiore interesse per i nostri ascoltatori. Adesso Maria Perdicchi, commentiamo un po' le prime considerazioni fatte invece dal nostro Nicola Borzi sullo stock di crediti deteriorati, appunto, che grava ancora sulle banche italiane, che è stato il grosso problema che ha portato nel novembre del 2015 al famoso decreto che tra una domenica e un lunedì risolse quattro piccole banche italiane. In realtà sì, abbiamo detto più volte, e anche lo scorso anno Visco aveva toccato questo tema. Le banche poste in risoluzione rappresentano circa l'1% delle attività dell'intero sistema bancario italiano, ma fu un grande caos quello determinato appunto da quelle vicende. Ecco, si vuole legare certamente un po' il problema delle sofferenze è il problema numero uno del sistema bancario italiano, poi ce ne sono altri anche di modello di business e via dicendo. Noi abbiamo ereditato con queste quattro banche l'esempio esatto di quello che affligge in realtà molte altre banche: da un lato una crisi profonda dei territori in cui operavano, che aveva generato sofferenze da aziende che erano sparite o andate in amministrazione straordinaria e via dicendo. facendo, dall'altro anche una cattiva gestione delle stesse banche, che è stato un elemento critico che ha portato prima alla loro commissariamento e poi a questa, diciamo, parziale risoluzione. Il tema delle sofferenze noi l'abbiamo affrontato in due modi: da un lato la struttura, diciamo, regolamentare del bail-in, che era entrata in vigore, motivo per il quale abbiamo fatto la risoluzione, ci ha imposto la separazione. In realtà è entrato in vigore qualche mese dopo. Noi abbiamo sempre detto che quella fase fu una prova tecnica, diciamo, il decreto legge era stato appena approvato, sarebbe entrato il 1 gennaio, ma anticipando le problematiche drammatiche che avrebbero portato a perdite non solo dei subordinatisti ma forse degli stessi depositanti, le autorità di risoluzione hanno negoziato con la DG Competition, con l'Europa, quindi, perché questo è il nostro interlocutore principale sull'attuazione di questa legge, questa semi risoluzione che ha portato sia alla perdita dei subordinatisti, poi in parte compensati da degli schemi di ristoro, ma per fortuna ha salvato i depositanti e gli obbligazionisti senior. Quindi, dicevo, gli NPL, allora, le sofferenze derivanti da questi problemi sono state in prima battuta concentrate in una bad bank, la REV, che a cui sono state cedute a un prezzo che ricordava il collega, certamente un po' sfidante, che però poi è stato rivisto da delle perizie indipendenti. Ricordiamo che ci sono sempre delle perizie indipendenti che vanno a vedere se quei prezzi sono adeguati, prezzi che poi hanno comportato un valore di riferimento anche per tutto il sistema. Ricordiamo che è stato un anno drammatico per il sistema anche in virtù di quei prezzi. Attenzione però che la seconda cessione di sofferenza importante è stata quella precedente alla cessione al gruppo UBI delle banche, che abbiamo fatto col fondo Atlante, che ha comportato delle quattro banche, ulteriori sofferenze e anche incagli per la prima volta ceduti in un unico pacchetto al fondo Atlante. Questo ha portato un valore medio del 32%, non così male direi, anzi, però dimostrava anche che le banche non solo avevano sofferenze al momento della risoluzione, ma continuavano a generare sofferenze, e quelli che sono gli incagli sono da molti compratori e dallo stesso gruppo UBI definiti in realtà sofferenze in arrivo, quindi sono stati anticipati nella cessione. Quali sono i problemi dei valori? Gliele faccio spiegare dopo il traffico, perché siamo in ritardo. Vedo intanto che Visco sta facendo dei ragionamenti sul tema della nostra crescita in rapporto all'area euro e al mondo. C'è questo grafico che si riporta su un sentiero appunto di ripresa, però siamo ancora ben al di sotto dei trend di crescita a livello mondiale dell'area euro. Adesso pubblicità, traffico, poi riprendiamo da Visco su questi punti e ritorniamo sul tema delle sofferenze bancarie italiane. Cuore e denari partecipa oggi a questo incontro. Abbiamo deciso di adottare dalla metà del 2014 queste misure, hanno contrastato con successo i rischi di una spirale deflazionistica. Dati gli alti livelli di indebitamento pubblico e privato, essa avrebbe provocato gravi effetti depressivi sull'economia dell'intera area. Da marzo dello scorso anno, quando è stato rafforzato il programma di acquisto di titoli, la probabilità di deflazione risulta dalle quotazioni delle opzioni scambiate. Sta ancora descrivendo il quantitative easing della Banca Centrale Europea, gli effetti probabilmente anche sull'Italia. Noi invece ragionavamo con i nostri ospiti in studio a commento delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Il tema delle sofferenze bancarie, un grande tema per quello che riguarda il nostro paese, che ha portato appunto anche alla risoluzione delle famose quattro piccole banche italiane, ma in realtà mantiene ancora aperto questo tema altri fronti molto grandi, che sono Monte dei Paschi, sono le due banche venete, c'è Carige anche, che è in una situazione di grossa difficoltà e della quale si parla questa mattina sui giornali. Completavamo per il ragionamento con Maria Pierdicchi, che oggi è consulente indipendente appunto per le quattro nuove banche, cioè la nuova Banca Marche, la nuova Etruria, la nuova Cari Chieti e la nuova Cari Ferrara. Peraltro ricordiamo tre di queste vendute ad UbiBanca al famoso prezzo simbolico di un euro, mentre ancora si deve chiudere la partita per Cari Ferrara, che dovrebbe essere invece in vendita nei confronti della Popolare dell'Emilia Romagna. Pierdicchi. Sì, stavo dicendo che appunto il prezzo delle sofferenze è vero che è un tema critico, però dipende da molti fattori anche specifici italiani. Uno, il loro grado di maturazione, se sono sofferenze molto recenti o molto vecchie. Noi ci siamo trovate con le sofferenze che stavano nei bilanci da anni, quindi il loro valore attuale è sempre più basso. Il secondo è il fatto che in Italia le garanzie sottostanti sono già in incagli, no? Perché un conto è la sofferenza perché una famiglia è un'impresa in una condizione di momentanea difficoltà non riesce a ripagare un debito, un conto è qualcosa che deriva dato da fallimenti magari e che non, la banca non recupererà probabilmente mai più. C'è un tema anche di capacità delle banche di lavorare su questi incagli e su queste sofferenze in maniera efficace. Ci sono degli operatori molto più specializzati, molto più attrezzati per farlo, ma c'è un problema anche italiano che è quello dei tempi di recupero delle garanzie, del valore delle garanzie sottostanti. E purtroppo in Italia abbiamo una legislazione estremamente complessa che rende molto lenti i tempi di recupero, questo riduce il valore delle sofferenze, così come anche appunto il fatto che le sofferenze siano rimaste in bilancio per molto tempo ne riduce il valore. Ci sono operatori che possono certamente fare un po' di utili su queste sofferenze, però è anche vero che senza sgravare le banche da questi pacchetti di sofferenze il credito non riparte, quindi è assolutamente fondamentale poterli dare degli operatori specializzati e liberare capitale per il credito, e questo noi con le banche, con le nuove banche diciamo consegnate a Dubi, siamo sicuri che è stato uno degli obiettivi raggiunti: ridare al territorio credito, ridare alle imprese che si nutrono del credito di queste banche la possibilità di attingere anche a nuovi prodotti e servizi. Lei diceva prima, ricordava come l'interlocutore per queste problematiche oggi è necessariamente Bruxelles, che continua a chiedere di sbrigarsi alle banche appunto per liberarsi da queste problematiche. Io mi ricordo in passato che fu una grande battaglia anche dell'amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo Messina, che diceva: in realtà siamo ben consapevoli di quello che è il nostro problema, ma se ci date un po' di tempo magari riusciremo anche a ridare un po' di fiato all'economia attraverso una gestione come dire nel tempo di questi problemi, nel recupero di queste sofferenze. Però insomma il fatto che ci sia l'Europa come nostro interlocutore, Nicola, non aiuta, e i paletti sono Ma diciamo che l'Europa in questo momento vuole garantire che l'applicazione della direttiva BRRD sia fatta in maniera uniforme su tutti i paesi. È la direttiva del bene, è la direttiva che abbiamo recepito il 16 novembre 2015. È quella che ha portato in Italia gli istituti del burden sharing e del bail-in. Allora, il problema qual è? Il problema è che ci sono due interessi confliggenti in realtà riguardo al tempo. Da un lato c'è l'interesse delle banche a non vedersi costrette a cedere grandi quantità di sofferenze in tempi molto rapidi, perché questo ovviamente dà potere negoziale a chi le acquista e quindi riduce il prezzo. Dall'altro lato c'è un altro fenomeno che gioca in maniera totalmente opposta, come diceva prima la nostra interlocutrice, cioè che più le sofferenze rimangono nei bilanci bancari, più la possibilità di andare a esercitare i relativi crediti e le relative garanzie e di portare come dire questi crediti e queste garanzie a compimento andandoli poi a incassare si abbassa, e quindi il valore di quelle sofferenze cala. Trovare un equilibrio tra questi due fenomeni contrapposti non è facile. Certo, gestire grandi masse di sofferenze e cederle in blocco rischia di diventare un problema. Negli ultimi giorni c'è stato questo accordo per un mandato univoco da parte di Monte dei Paschi di Siena. Bravo, infatti lì volevo arrivare, perché in tutto questo ragionamento noi abbiamo affrontato anche la presenza di un interlocutore nuovo nel sistema bancario, quello del Fondo Atlante. Esatto. Che si è costituito, ricordiamolo Nicola, in che momento della storia recente delle banche italiane? Nel momento del crollo di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza. E per fortuna che c'era Atlante, che è subentrato negli aumenti di capitale andati deserti dei vecchi soci, altrimenti queste banche sarebbero andate immediatamente in bail-in. Ora il problema quel fondo Atlante che proprio in questi giorni ha detto: però noi non siamo disposti a reintervenire di nuovo sul capitale, perché Bruxelles ha detto che nel nuovo intervento da 6,4 miliardi di euro, 1 miliardo di euro riguarda situazioni di sofferenze pregresse sulle quali non si possono usare gli aiuti di Stato per poter arrivare a una risoluzione diciamo gestita della situazione. Ora il problema secondo me qual è? Che in questo momento Atlante in realtà sta facendo un lavoro difficile e viene in qualche modo ricompensato attraverso questa gestione del pacchetto di crediti di MPS in esclusiva del lavoro che ha fatto sulle Venete, perché ricordiamoci che sulle Venete l'iniezione di patrimonio fatta da Atlante è andata già completamente distrutta. Infatti, e Atlante ha dovuto essere svalutato nei portafogli di tutti coloro, era una altro sessantina... momento di grandissima polemica peraltro. Sentiamo Visco, che mi pare che stia parlando adesso di lavoro, retribuzione, inflazione, o forse ha già cambiato. Sentiamo. Gli investimenti del 30%, i consumi dell'8%. Ancora oggi nel nostro paese il prodotto è inferiore di oltre il 7% al livello di inizio 2008. Nel resto dell'area lo supera del 5%. Le difficoltà sono state accentuate da vulnerabilità istituzionali nell'area dell'Unione Europea e da squilibri macroeconomici e finanziari a lungo sottovalutati in diversi paesi. Dopo la realizzazione dell'unione economica e monetaria, l'integrazione era avanzata a rilento. Nell'assunto che regole sta ancora comuni, affrontando le questioni macroeconomiche internazionali, Visco, allora magari a partire dalle 11 in avanti forse lo sentiremo un po' di più sulle questioni italiane. Maria Pierdicchi, volevo ritornare per un attimo alla questione delle good bank, peraltro una volta messa appunto in risoluzione e salvaguardati i correntisti di queste banche, il territorio con tutto il procedimento che abbiamo ribadito prima, in realtà poi c'è stata anche tutta la partita di ristoro degli obbligazionisti che detenevano appunto titoli subordinati che erano stati sottoscritti presso queste banche. Peraltro ho scoperto proprio ieri, ricostruendo questa vicenda, che oggi scadono i termini che erano stati prorogati per chiedere l'indennizzo forfettario. Nicola, dottoressa Pierdicchi, questo passaggio è stato importante pure per lei? Sì, assolutamente, perché ricordiamo che la legge è stata applicata in maniera molto rigida dall'Europa, in modo tale che tutti i subordinatisti, i detentori di questi titoli, pagassero a prescindere dal fatto che avessero comprato i titoli anche ben prima, nel 2006-2007, l'80% di questi titoli era stato collocato nel 2006-2007, anni prima la nuova legge, quindi forse una maggiore flessibilità nell'applicazione non della legge. Non era detto, insomma, che poteva essere, che dovessero essere, ragione Nicola, per la quale tutti hanno sofferto una perdita. Però noi ci siamo subito adoperati, organi di gestione delle banche di risoluzione, per facilitare un processo di ristoro, capendo esattamente la gravità di queste perdite, in particolare per i clienti più deboli da un punto di vista finanziario, ma anche perché ovviamente queste perdite hanno innescato una corsa a ritirare depositi quando in realtà le banche erano già state messe in sicurezza, che affliggeva la nostra liquidità. No, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà nella liquidità, quindi attivare un processo di ristoro che confortasse i nostri clienti era importante. Questo è stato fatto in due modi, ha richiesto un po' di tempo, però sicuramente ha rimborsato già alcuni degli investitori, altri potranno ricorrere all'arbitrato. Certo. Vorrei anche ricordare che la nostra legge, che ancora non è partito, ma stiamo in effetti ha dei tempi un po' più lunghi, però tutti hanno diritto ad accedere e credo che ci sarà sicuramente una valutazione attenta delle posizioni. In questo modo le perdite sono state molto ridotte. Certo. Vorrei anche ricordare che questa legge è stata applicata in Italia in quel modo, secondo la sua, diciamo, anche un po' in modo un po' rigido, dopo che invece altri paesi avevano già messo in sicurezza le banche con denaro pubblico, salvando delle banche là dove l'Italia non aveva speso una lira di denaro. Allora, pubblico. Vi chiedo pazienza, c'è il giornale radio, Nicola, poi abbiamo un'altra mezz'ora tutta per noi, a tra poco. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Quelle che fanno capo a intermediari che stanno attraversando situazioni di difficoltà e possono trovarsi nella necessità di disfarsene rapidamente ammontano a circa 20 miliardi. Come abbiamo documentato, i valori ai quali i crediti in sofferenza sono iscritti nei bilanci sono in linea con i tassi di recupero effettivamente osservati negli ultimi 10 anni. Ma anche se fossero venduti ai prezzi molto bassi offerti da pochi grandi operatori specializzati oggi presenti sul mercato, che ricercano tassi di profitto molto elevati, l'ammontare di rettifiche aggiuntive sarebbe contenuto nei 10 miliardi. Lo state ascoltando insieme a noi, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia. Presumibilmente le sue ultime considerazioni finali, il suo mandato scade ad ottobre, non è detto che il governo, insomma, che lo riconfermi, anche se in realtà c'è un grande dibattito su questo, magari proprio in virtù di questa potenziale crisi politica del nostro paese, forse potrebbe essere data continuità alla guida della Banca d'Italia. Detto questo, il tema di cui sta parlando è proprio quello che abbiamo affrontato in larga parte nella prima parte di Cuore e Denari con Nicola Borsi e Maria Pierdicchi questa mattina, il tema dei crediti deteriorati delle banche che Visco ha detto insieme al debito pubblico sono uno dei due fattori di debolezza che riducono i margini di manovra dello Stato e degli intermediari e soprattutto rendono vulnerabile l'economia italiana alle turbolenze sui mercati e possono amplificare anche gli effetti delle fluttuazioni cicliche, stava spiegando il meccanismo di gestione di questo fardello bancario, come lo abbiamo ribattezzato all'inizio, e anche noi abbiamo provato a spiegarlo ai nostri ascoltatori cosa stanno facendo le banche per risolvere questa situazione. Detto ciò, eravamo rimasti alla situazione più delicata che stanno vivendo in questo momento, dopo aver ricostruito le vicende delle quattro banche risolte. Stavamo invece adesso provando ad affrontare il tema delle due venete e di Monte dei Paschi. Allora, con Nicola ti faccio sentire anche la domanda di Franco da Torino, così riprendiamo il filo del discorso sul tema di Monte dei Paschi. Franco, benvenuto. Buongiorno. Appunto, io avevo acquistato azioni di Monte Paschi, poi ho aderito agli ultimi aumenti di capitale, il mio investimento ci rimetto l'86%, mi sembra. Comunque sono rischi che lo posso anche capire. Però li hanno bloccate, non sospese, e adesso non si sa più niente. E c'è stato un gufo che mi ha detto: no, ma guarda che ormai non li quotano più, il Monte Paschi oramai. Che storia è questa? Ce lo stavamo chiedendo anche noi, Franco, a microfoni spenti. Azioni sospese dall'inizio di dicembre, sospensione anche per le obbligazioni, no? Sì, dal 22 dicembre. Diciamo che quando c'è stato il fallimento del tentativo di aumento di capitale di mercato, Consob ha deciso di sospendere innanzitutto le azioni e poi ha esteso questo congelamento degli scambi su tutti i mercati regolamentati anche a tutti i titoli obbligazionari emessi o garantiti dal Monte dei Paschi di Siena. Quindi parliamo in totale, solo per i titoli obbligazionari, che sono sia quelli subordinati che i senior, di circa 40 senior di circa 40 miliardi di euro. Ora, il problema del nostro ascoltatore, di questo risparmiatore, è molto semplice. Fino a quando non ci sarà il ristabilimento di una situazione di visibilità sul futuro di Monte dei Paschi, la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa non consentirà ulteriori scambi su questi titoli, sia azionari che obbligazionari, perché si rischia, in una situazione di forte tensione, che si generino delle situazioni speculative. Il fatto che il Fondo Atlante sia stato conferito il mandato in esclusiva per la cartolarizzazione dei 28 miliardi di crediti deteriorati dei Monte dei Paschi potrà cambiare questa situazione, secondo te? È uno dei passaggi del piano, nel senso che il piano si basa su due gambe: da un lato la cessione degli NPL, cioè delle sofferenze, in maniera da evitare ulteriori contraccolpi alla situazione patrimoniale della banca sul fronte degli stock che sono necessari stanziare per coprire le sofferenze, e dall'altro un intervento di ricapitalizzazione potente che rimetta il patrimonio della banca in linea con i ratio che sono richiesti dalle autorità di vigilanza europee. Io però vorrei fare un passo indietro rapidamente sulla questione dei subordinati. Oggi scade il termine per presentare la richiesta di indennizzo forfettario per coloro che sono stati coinvolti nella risoluzione delle quattro banche del 22 novembre 2015. E che hanno determinati requisiti, per molti altri invece c'è attesa per la questione relativa all'arbitrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. C'è in realtà una terza via, che è la possibilità di accedere al nuovo arbitro per gli investimenti della Consob. Anche qui però ci sono alcune situazioni. Innanzitutto c'è un limite di 500.000 euro per investimento. Bisogna poi ricordare una cosa, in realtà, che tutta questa questione non risolleva dal danno tutti gli azionisti che sono andati azzerati e sui quali non ci potrà essere nessun tipo di intervento. La partecipazione c'è al capitale, inoltre, di un rischio. Tema di tempi che si sono dilatati in maniera spaventosa. C'è la questione del fatto che anche con le nuove modifiche alle regole buona parte di coloro che hanno subito il danno non rientrano, ad esempio, nell'ambito dell'indennizzo forfettario. E poi c'è tutto il tema che è ancora sospeso, ad esempio, delle venete. Perché sia Veneto perché Banca anche lì, che la Vicenza sono azionisti ed azionisti, perché gli ex azionisti delle due popolari, appunto, di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, in realtà hanno avuto la possibilità di partecipare a questa proposta transattiva che si è chiusa pure qualche settimana fa con un alto tasso di adesione e con larga insoddisfazione, perché i margini di ristoro li sono risicatissimi lo stesso, e però quella è una questione aperta. Estremamente ma c'è delicata, ancora tutto il tema, c'è ancora tutto il tema dei bond delle venete. Parliamo di circa 13 miliardi di euro, di cui oltre 1,5 miliardi sono subordinati, sui quali pendono tutti i rischi della situazione di queste banche, che possono andare, nell'ipotesi più ottimistica, in burden sharing, e in un'ipotesi che speriamo sia smentita dalla realtà c'è un rischio concreto di bail-in. Certo. Questo significa che comunque ci saranno delle ricadute in ogni caso sui detentori di titoli subordinati. Il rischio è che queste ricadute si possano estendere anche ai detentori di titoli senior. Mi ha dato un assist molto importante per affrontare il successivo passaggio con Maria Perdicchi, perché in realtà, insomma, indiscrezioni e dietro le quinte ci raccontano che queste banche stanno ancora piazzando obbligazioni subordinate con tassi di rendimento elevatissimi, e c'è chi ancora chi chi le va a cercare e chi prova a sottoscriverle magari per rientrare di capitali persi o non sappiamo appunto con quale finalità. Detto questo, dottoressa Pierdichi, lei oggi è consigliere indipendente delle quattro nuove banche nate appunto dalla risoluzione delle quattro piccole banche italiane di novembre, lo abbiamo ricordato prima. Che conseguenze sono state generate in termini di lezioni anche sulla propria pelle che hanno, come dire, appreso gli italiani in termini di educazione finanziaria? Perché gli italiani hanno scoperto loro malgrado che intanto magari della banca in prossimità del territorio forse non ci si può più fidare pienamente, che concentrare tutti i risparmi in un unico strumento di investimento non è più una buona scelta. Insomma, anche per voi che poi, oltre a risanare queste banche, avete fatto delle grandi operazioni di educazione finanziaria sul territorio, ad oggi qual è il bilancio che può trarre? Sì, da questa ci siamo ricerca? Trovati nella situazione in cui dovevamo in qualche modo sanare la mancanza di educazione finanziaria di tanti dei nostri clienti che non avevano capito come era cambiata la rischiosità di alcuni titoli, quindi abbiamo cercato di promuovere una grande campagna nelle scuole, nei territori, con le istituzioni nei quattro territori in cui abbiamo operato. È chiaro, spiegavate cosa stavate facendo in termini di risanamento, perché la risoluzione aveva messo in sicurezza le banche, che non avevano più niente da temere, che certamente ci saremmo spesi per un ristoro che poi è arrivato, purtroppo con i suoi tempi, però è arrivato, e che anche che qualunque investimento deve essere visto in un'ottica di diversificazione e di cognizione precisa del rapporto tra rischio e rendimento. È chiaro che i subordinati bancari sono tutti, con la nuova legge bail-in, a rischio. Bisogna andare a vedere qual è il rischio sottostante della banca, che capitalizzazione ha, che tipo di rischiosità ha e anche che tipo di rating ha, eccetera. Però i subordinati oggi sono ancora un elemento nel portafoglio. Poi bisogna distinguere tra chi le ha magari acquisiti in buona fede anni fa, quando la legge non era ancora nota, e chi invece li acquisisce speculativamente sul mercato secondario ancora oggi. Io vorrei invitare tutti a fare sempre un'analisi molto attenta del rischio. I titoli subordinati e i titoli senior sono potenzialmente a rischio, dipende dall'emittente, ma quando c'è un rendimento del 30-40%, come su alcuni titoli di banche dissestate oggi si vede, attenzione, perché quello è un rischio altissimo di non recuperare niente. Detto questo, il concetto di diversificazione e di analisi del rischio del singolo titolo, e magari di affidarsi a un operatore specializzato, a un fondo comune, a una società di gestione, è sempre il mio consiglio per chi soprattutto non ha un'educazione finanziaria molto sofisticata. Però dobbiamo lavorare tutti perché questa educazione finanziaria migliori e perché non si arrivi ancora a delle crisi di fiducia che poi minano l'esistenza delle stesse banche, perché se poi si ritirano i depositi, le banche vanno in crisi, perché l'investitore ovviamente punisce immediatamente o scappa senza sapere quali sono gli effettivi rischi. A quel punto il sistema bancario, che vive di fiducia, entra in una crisi di liquidità e la crisi diventa sistemica. Quindi attenzione a essere selettivi prima e non essere precipitosi dopo. Infatti. Sentiamo Visco ancora se sta dicendo delle cose interessanti che ci possono dare un buon spunto di commento. Occupazioni compenserà la perdita di quelle soppiantate dalle macchine, come è avvenuto finora nella storia. Valutare questi effetti è difficile, ma l'economia italiana pare vulnerabile ai processi di automazione. Forse secondo sta commentando un po' l'era del fintech, Nicola, di tutto il tema della disintermediazione finanziaria. Fra un po' magari non ci suggeriranno più di sottoscrivere obbligazioni subordinate andando direttamente allo sportello, ma che ne so, è un altro grande rischio. Anche il presidente della Consob, Vegas, ha detto che quello è un mondo che va un po' più regolato, disciplinato. So che voi ve ne siete occupati tanto anche, esatto, per Plus 24. Esatto, abbiamo fatto l'ultima copertina proprio su questo tema, sulla questione della disintermediazione, sul ruolo delle nuove tecnologie in ambito bancario e sull'impatto che queste hanno in settori che attualmente sono marginali dal punto di vista dei ricavi delle banche, come la gestione dei pagamenti, ma che in realtà sono una miniera d'oro per gli operatori specializzati, perché consentono di accumulare quantità enormi di informazioni sui clienti e quindi di utilizzarle a livello poi di big data per estrarre valore quando si vanno a proporre altri servizi. Certo. Nicola, torniamo invece un po' alle banche italiane, alla situazione delle due banche venete. Allora, ad oggi la situazione qual è? Si sta tanto discutendo della possibilità di integrarle, di farle sposare, sarebbe una soluzione appunto che in qualche maniera metterebbe un po' in sicurezza il territorio, i correntisti, Bruxelles che cosa ci chiede in questo momento? In questo momento la DG Concorrenza di Bruxelles, cioè l'antitrust europeo, chiede sostanzialmente che siano rispettate le regole, quindi chiede che sull'aumento di capitale o comunque sulla ripatrimonializzazione di queste banche da 6,4 miliardi, un miliardo sia a carico dei privati, perché riguarda perdite su NPL che si sono verificate prima di una presa di conoscenza della situazione da parte dello Stato, e quindi non si può intervenire con fondi pubblici. Atlante ha fatto sapere chiaramente di non essere in condizione di intervenire, e anche nel caso ci fossero le condizioni per intervenire, di non voler iniettare altro capitale dopo i 3,5 miliardi inseriti negli aumenti di capitale che sono saltati da parte degli vecchi soci negli anni scorsi. Cosa succede ora? Le strade sono sostanzialmente tre: la possibilità di integrare queste banche con altri gruppi di maggiori dimensioni. Oggi il Messaggero dà la notizia che ci sarebbe un piano B, la possibile integrazione della Vicenza con MPS, e lasciare Veneto Banca a una strada diversa che potrebbe essere il burden sharing. L'alternativa, la combinazione fra i due istituti, la quale però ha un enorme problema di carattere regolamentare e di antitrust, visto che queste banche insistono sugli stessi territori, quindi ci sarebbe una sovrapposizione brutale, ad esempio, delle reti di vendita con centinaia di sportelli che ricadrebbero nello stesso ambito e sui quali bisognerebbe intervenire con chiusure draconiane. La terza è il rischio che non può essere escluso che invece del burden sharing una delle due banche o entrambe possono andare in bail-in. Sarebbe uno shock sistemico di proporzioni enormi, perché parliamo di banche che hanno una dimensione combinata molto più rilevante delle quattro che sono andate in risoluzione il 22 novembre 2015. Non solo, se si verificasse un bail-in sul territorio italiano, sarebbero coinvolti non soltanto gli obbligazionisti subordinati, ma anche i senior, e probabilmente con una quota marginale magari anche qualche correntista. Sappiamo che potrebbero essere coinvolti tutti i correntisti che hanno più di 100.000 euro. Non a caso da queste banche negli ultimi mesi si è verificato un'enorme fuga di risparmio e di liquidità che ha messo lo Stato in condizione di dover intervenire sottoscrivendo obbligazioni garantite per parecchi miliardi per garantire l'operatività corrente, altrimenti gli indici di liquidità delle banche sarebbero scesi pericolosamente sotto i livelli regolamentari previsti e si sarebbero potute verificare altre condizioni. Maria Perdicchi, dobbiamo aggiungere qualcos'altro in termini di costi pagati per il risanamento delle banche italiane in difficoltà? Ma io credo che sia importante ricordare che abbiamo consegnato queste banche a un gruppo solito industriale che adesso le rilancerà. Le tre delle quattro, la quarta speriamo di consegnarla il mese prossimo. È costata questa operazione certamente, sì, attenzione, non è denaro pubblico, è denaro del sistema bancario, stimato in circa 4 miliardi e mezzo. Però dobbiamo considerare una cosa, quindi non soldi pubblici, soldi del sistema. Cosa avrebbero pagato il sistema nel suo complesso se queste banche fossero andate in liquidazione? Perché questa era l'alternativa in assenza di compratori. Tutte le aziende, stiamo parlando di migliaia e migliaia di aziende, di piccole aziende, oltre 200.000 PMI depositanti e via dicendo, avrebbero dovuto essere liquidate. Questo sarebbe stato un danno enorme che noi abbiamo stimato insieme alle autorità in circa 12 miliardi, forse anche in maniera un po' ottimistica, e che avrebbe comportato per molte aziende dover rientrare dai crediti, quindi presumibilmente avere anche delle grosse difficoltà, generare nuove sofferenze per i depositanti, perdite per gli obbligazionisti senior, grosse perdite. Quindi noi riteniamo che il bilancio sia assolutamente positivo, soprattutto abbiamo lavorato nell'interesse del territorio, dei nostri depositanti, dei nostri clienti, che oggi possono contare su un gruppo solido e su dei bilanci puliti. Certamente un costo c'è stato, ma è stato il minimo che si poteva nel contesto della risoluzione. Anche se poi in realtà anche di questo tema Plus 24 del Sole 24 Ore ha parlato spesso, sì, il tema del chiamiamolo così salvataggio, risanamento, è stato un problema gestito all'interno del sistema bancario, però sull'estratto conto in realtà i correntisti italiani tutti qualche voce di bilancio un po' alterata l'hanno notata. Sì, gli oneri di conferimento dei fondi necessari a gestire il fondo che ha la parte emergenziale del fondo che ha iniettato la liquidità in queste banche sono stati spalmati poi sui correntisti, l'abbiamo scritto anche già l'anno scorso. Ora io vorrei soltanto fare una considerazione finale. Abbiamo come quella di Visco, ti candidi a fare governatore della Banca assolutamente d'Italia? Non ho né le competenze né il piacere di sedere su una poltrona così bollente. Ma il tema che vorrei sottolineare è che abbiamo giocato per anni in difesa sul settore bancario, procrastinando con una serie di interventi emergenziali una soluzione sistemica, anche quando c'erano le condizioni per intervenire con fondi pubblici, cioè prima del varo della direttiva BRRD, cioè dal periodo che dal 2011 è andato fino al 2014. Continuare a giocare in difesa, continuare a procrastinare, secondo me questo è stato l'errore fondamentale della politica, ma anche delle autorità di vigilanza, sia della Banca d'Italia che della Consob, si è rivelato perdente. Se non si affronta la crisi bancaria per quella che è non la crisi di un singolo istituto, ma un problema sistemico con interventi urgenti, rischiamo di dover collezionare tutta una serie di interventi emergenziali che sono continui cerotti a una situazione di salute che invece va curata alla radice. Beh, non c'è dubbio che anche noi ci siamo trovati a capire subito che il problema era sistemico e non legato solo a situazioni specifiche, per questo che abbiamo cercato di tamponare la trasmissione del problema, certo, alle altre banche con una serie di interventi, e la risoluzione in questo senso ha funzionato, però attenzione che altre perdite potrebbero generare altri impatti sistemici. Sono d'accordo che ci vuole una situazione per tutto il sistema. C'è un ruolo fondamentale della politica che finora non è stato assolto, perché continuare con una legislazione di emergenza e non avere una corretta interlocuzione anticipatoria. È anche con un messaggio Bruxelles sbagliato che passa alle persone, secondo me. Tu sei protagonista di un caso di dissesto finanziario perché magari hai investito male i tuoi risparmi e devi intervenire nel giro di un mese lo Stato a salvaguardare il denaro che hai perso, che sicuramente in un'ottica di tutela, secondo quanto anche indica la Costituzione, può anche essere un intervento corretto, ma non può essere sempre così, che ad ogni caso di dissesto deve intervenire un intervento dello Stato per indennizzare. Giusto per chiudere il quadro, si parla di andare alle urne in maniera anticipata a settembre, quindi saremmo già sostanzialmente di nuovo in campagna elettorale, in un momento in cui le difficoltà del paese sono tali e i temi sono talmente gravi, come la crisi bancaria, ripeto, che servirebbe invece una gestione di questo problema in maniera continua e molto molto molto aggiornata sui fatti. Il rischio è quello di trovarci da qui magari a un'estate di tensioni elettorali in cui magari altri temi, altre situazioni bancarie che in questo momento sono ancora sotto traccia possono venire fuori. Ci manca pure che scoppino ad agosto, così avremo un bel po' da fare anche qui a Radio 24. Allora, prima dei saluti, sono già quasi le 11:30, sentiamo ancora Visco magari per qualche 30 secondi finali. Il rischio è cresciuto di 4 punti percentuali per le banche maggiori al 10,4% in media, di 5 punti per le altre al 15,5. In un paese in cui i finanziamenti alle imprese provengono per 4/5 dalle banche, la caduta dell'attività produttiva si è inevitabilmente ripercossa, come osservato sugli intermediari. La redditività delle banche e la capacità di generare capitale sono peggiorate, risentendo sia del calo dei ricavi sia delle maggiori perdite sui crediti. Nel triennio 2013-15 queste ultime hanno mediamente assorbito il 90% del risultato. Insomma, il tema delle banche in rapporto all'impresa anche italiana. 30 secondi finali con Maria Perdicchi li vorrei fare. Dicevo prima, questo è un tema molto caro a cuore Denari, la questione dell'educazione finanziaria. Non siamo riusciti a cogliere alcun passaggio di Visco, non so neanche se ne farà su questo argomento, ma da gennaio abbiamo un provvedimento appunto di disciplina dell'educazione finanziaria, delle varie iniziative che ci sono in Italia. Abbiamo una cornice legislativa che prima non c'era, qualcuno è anche un po' insoddisfatto di questo intervento di fatto è stato fatto, con Banca d'Italia che si candida a svolgere il ruolo di cabina di regia di tutte le iniziative a coordinamento di tutto quello che si fa in Italia. Lei che ne pensa, insomma, anche nell'ambito dei ruoli che riveste? Ma io penso che sia un tema nazionale fondamentale, è importante che l'Italia si candidi, perché su questo può sicuramente fare scuola su tanti temi e può veramente lanciare una grossa campagna. Già le autorità sono molto impegnate, ricordo che i siti di Banca d'Italia, di Consob, sono estremamente ricchi di informazioni. Che al territorio arriva quindi poco. Io invito veramente tutti ad andare a consultare, a capire, a porre questioni, perché c'è molta molta sensibilità e le stesse banche lo stanno facendo, e quindi io credo che sia assolutamente una priorità su cui tutti devono lavorare, le stesse banche devono lavorare, ma stanno investendo anche delle risorse. Certo. Su questo lo stesso gruppo UBI lo sta facendo. Anche Plus 24, che tutte le settimane ha una pagina dedicata all'educazione finanziaria e che questo sabato torna su vari temi, compresi i mercati emergenti e la situazione delle banche venete. Benissimo, grazie ad entrambi per avermi accompagnato questa mattina in questa guida alla lettura delle considerazioni finali di Visco. Purtroppo abbiamo preso dei passaggi così random, magari non particolarmente significativi dato il taglio che ha generalmente il nostro programma, però sul tema dei crediti deteriorati delle banche, che poi alla fine arrivano anche al risparmiatore finale, siamo riusciti a fare qualche commento. Grazie a Maria Perdicchi, in bocca grazie al lupo per la sua avventura con le Good Bank, grazie a Nicola Borzi. Grazie Deborah. Noi ci fermiamo, abbiamo la borsa e poi ritorniamo in diretta con Nicoletta dalla giornata mondiale senza tabacco, parleremo poi anche di segreti a tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denaro. Sigarette la mattina, la la la la la la la, sotto questa pioggia fina, la la la la la la. Eccoci ritrovati insieme oggi, come abbiamo anticipato all'inizio, la giornata mondiale senza tabacco, una ricorrenza che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indetto dal 1988 con lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, con la speranza naturalmente poi di invitarli a smettere definitivamente. Quest'anno il tema del World No Tobacco Day è tabacco, una minaccia per lo sviluppo, ma non vi dico di più perché ci colleghiamo con l'Istituto Nazionale dei Tumori, dove si trova la nostra Nicoletta questa mattina, che sta moderando e coordinando una mattinata piuttosto impegnativa. Nicoletta, ciao, come sta andando? So che sei anche con degli ospiti, per cui... Sì, sono venuta Deborah accompagnata, sono in compagnia naturalmente del dottor Roberto Boffi, che gli ascoltatori di Cuore e Denari conoscono bene, e del dottor Giovanni Apollone, che è direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove quest'anno, come ormai ogni anno, sono state invitate 300 ragazzi provenienti da scuole di tutta Italia per sensibilizzarli a non iniziare a fumare, a smettere quanto prima, ma soprattutto a raccontare loro che i danni del fumo non sono solo quelli del fumo di prima mano, chiamiamolo così, ma anche quelli soprattutto del fumo passivo. Quindi grande attenzione anche con degli interventi di ricercatori come il dottor Chiamulera, che noi abbiamo avuto Deborah ospite, un farmacologo di Verona, sì, che ha spiegato ai ragazzi come la sigaretta li uncina e quindi crea dipendenza, quali sono i meccanismi nel loro cervello. Proprio ieri parlavamo del cervello degli adolescenti insieme ad Alberto Pellai. I ragazzi, devo dire, sono molto attenti, partecipano con le loro domande e le loro esperienze, sono mi sembra proprio intenzionati, questo ce l'auguriamo, almeno a riflettere, a farsi delle domande, e il messaggio che hanno recepito è che davvero il fumo riduce la libertà, oltre che naturalmente impatta sulla salute. A proposito, io chiedo subito al mio primo ospite, il mio primo cavaliere, al dottor Apollone, di farci un po' una fotografia della situazione, perché nonostante tutte le campagne, nonostante i messaggi di medici e di tutte le persone che ci vogliono bene, che conoscono la situazione, si continua a fumare, si fa fatica a smettere e iniziano i ragazzi e soprattutto le ragazze. Allora, dottor Apollone, lei che è un epidemiologo e anche un ricercatore, ci faccio una fotografia della situazione attuale partendo dai dati che lei commenta in modo molto chiaro. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Sì, in effetti, nonostante tutto, nonostante quello che sappiamo sul fumo, sulle sostanze associate al fumo e quant'altro, troppi milanesi, troppi italiani e troppo giovani, tuttora in base alle diverse ricerche che abbiamo fatto, stanno ancora fumando. Cosa possiamo dire? Mettendo insieme i risultati delle diverse indagini fatte, possiamo dire che ancora troppi italiani fumano, 22-23% degli adulti fumano abitualmente, e la stessa percentuale la troviamo anche tra i giovani. Due dati fra tutti. Fra i 17 e i 24-25 anni, il 22-23% degli intervistati ha ammesso di essere un fumatore abituale. Quando cominciano questi ragazzi? Questi ragazzi cominciano in media, ma noi sappiamo che la media è uno stimatore troppo approssimativo, quindi poi la commentiamo, che in realtà la maggioranza di questi ragazzi cominciano a fumare e diventano fumatori abituali intorno ai 17 anni. Però molti, 10, 13, 15% hanno cominciato molto prima. Altre indagini fatte nelle scuole superiori di alcune città su campioni rappresentativi ci dicono che nel 2015-2016 il 23-24% degli studenti delle scuole superiori sono dei fumatori abituali, e questo è un dato in aumento rispetto a stime di qualche anno precedente, che ci fissava questa stima intorno a 20 anni. Quindi, nonostante tutto, troppi italiani e troppi giovani, e io direi anche, per commentare l'introduzione, troppe donne e troppe giovani donne cominciano a fumare e restano uncinati per chiari meccanismi neurofisiopatologici restano lucinati a questa abitudine che ne sappiamo è dannosa, non soltanto perché determina un aumento di incidenza del cancro, che non voglio ricordare in questo contesto, ma determina uno tsunami in molti organi e molti apparati del nostro organismo. Deborah, chi fuma avvelena anche te, questo potremmo in questo modo smettere. Potremmo un po' commentare, digli di smettere, i danni anche del fumo passivo. Io quindi passerei la parola al dottor Roberto Boffi, che è ideatore, anima e cuore di questa manifestazione, perché sai che come ogni anno ci stupisce con effetti speciali, e dopo gli esperimenti condotti nelle spiagge, nelle zone pedonali in città, quest'anno insieme al suo team è andato alla stazione centrale di Milano. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Deborah. Buongiorno. Quest'anno abbiamo attaccato, tra virgolette, il fumo passivo in città all'aperto, in situazioni che un pendolare, abbiamo immaginato un ragazzo o una ragazza che arriva al mattino, prende il treno e prima di prendere il treno è esposto al fumo passivo delle persone che stanno per salire sulle carrozze, poi scende, deve fare un percorso in mezzo ai fumatori all'interno della stazione lungo i binari, e abbiamo trovato lì almeno 8 volte più black carbon, quindi il tracciante che indica la capacità, la componente più tossica, più dannosa delle polveri sottili, 8 volte più che in città, che nella piazza antistante alla stazione centrale di Milano. E poi l'abbiamo seguita sempre misurando le polveri sottili nei cortili della scuola, al parco di un parco giochi dove magari accompagna il fratellino a giocare allo scivolo, poi a bere l'aperitivo nella via del centro pedonale, dove però ci sono le persone che fumano al tavolino camminando, facendo lo struscio in zona Brera, Milano, per chi conosce Milano, e poi la sera il cocktail e la discoteca all'aperto. Abbiamo trovato sempre altissimi livelli, quindi un'esposizione a picchi di polveri fini e ultrafini che possono essere sicuramente dannose per tutti, ancora più per categorie sensibili a rischio come i bambini, come le donne incinte, come i malati di cuore e come i malati di polmoni, in particolare gli asmatici. Quindi allarme rosso, dottor Boffi, nelle stazioni, voi avete misurato la stazione centrale, l'inquinamento da sigarette è 8 volte maggiore rispetto che all'esterno. Questo è un dato, Deborah? Incredibile, sì. Ne abbiamo parlato tante volte anche qua in studio a microfoni spenti con il dottor Boffi, ti ricordi? Proprio io gli rappresentavo il mio disagio dello scendere dal treno e trovarsi avvolti da queste nubi di fumo, no? Molto sgradevoli. Adesso apprendiamo anche che tipo di danno e che impatto hanno sulla salute di tutti quanti noi, Nicoletta. È proprio così, quindi fumo di prima mano, fumo passivo, sono delle minacce serie per la nostra salute. Cercherò ancora nel corso della mattina di raccogliere dei messaggi per entrare dentro la testa dei nostri figli, che nonostante tutto continuano a iniziare a fumare e fanno fatica a smettere. Dottor Boffi, so che è tempo di andare a sentire le informazioni sul traffico. Hai anche un altro minutino se vuoi, Nicoletta. Bene, ma ci sono dei buoni testimonial quest'anno, brava, perché so che il professor Boffi Il dottor Boffi anno tira fuori dal suo cappello un testimonial. Quest'anno è un testimonial che gli sta molto a cuore, vista la sua fede sportiva, dottor Boffi. Non ho fatto fatica a invitarlo stavolta, però l'anno scorso siamo stati distanti. L'anno scorso avevamo invitato un altro ex calciatore, un altro campione, che era Daniele Massaro, ex milanista. Quest'anno invece tocca a noi tifosi dell'Inter, e quindi c'è Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter ma anche della nazionale italiana, che non ha mai fumato e poi si è occupato anche di formazione, ha vissuto 3 anni in America, Miami, quindi parla ai ragazzi stamane dell'importanza del respiro, della buona salute, di uno stile di vita sano, soprattutto all'età giovanile, e di dare buon esempio. Sono quei campioni che a noi piacciono, ecco, quelli che hanno veramente qualcosa da raccontare di positivo ai ragazzi, far capire che se vuoi ottenere qualcosa di realizzare tutte quelle che sono le tue potenziali tasse. Se sei un campione, naturalmente sono più grande di quelle degli altri, puoi farlo solo mangiando bene, facendo tanto movimento e prima di tutto respirando bene, non fumando. Esatto. Benissimo. Nicoletta. Sì, conclusivo, se c'è tempo di 30 secondi, certo. Del direttore scientifico, del dottor Apolone, ci lasci con uno slogan, dottor Apolone. I giovani, perché noi dobbiamo prevenire questa cattiva abitudine che fa male ai ragazzi che diventano adulti, fa male alle persone che sono vicino a loro e fa male all'ambiente. Fumo di prima mano, di seconda mano, fumo passivo, ma anche di terza mano, ci portiamo indietro, intorno il nostro fumo. Ragazzi, non cominciate, se avete cominciato smettete, siate gentili con i fumatori perché ne hanno bisogno, ma soprattutto aiutateli a smettere di fumare. E vi ringrazio per questa opportunità. Deborah, ti saluto, ti bene. Porto l'autografo, sì, e poi non è un segreto, domani torno con sì, te. Sì, brava. Ascolta, adesso a proposito del fatto che non sia un segreto che tu domani torni, mi hai dato un assist assolutamente adeguato per lanciare il prossimo approfondimento, però volevo anche dirti, strappa una promessa al dottor Boffi e anche all'altro tuo ospite. Dottor Apolone. Esattamente, perché sai che adesso si comincia ad andare al mare e c'è anche la grande battaglia delle spiagge pulite dai mozziconi. Ecco, questa sfida, no? Allora spiagge, ma il dottor Boffi mi sta già facendo una faccetta come per dire noi già l'abbiamo detto, perché hanno certo, hanno misurato collaborato, continuiamo a collaborare con una delle spiagge più grandi d'Italia, che sono quella di Bibbio, che è quella di Bibbione, che da diversi anni è diventata smoke free e non ha affatto perso turisti, ma anzi addirittura ne ha guadagnato. Benissimo, allora a questo tema dedicheremo questo. Benissimo, Nicoletta, torna presto da me e bocca al lupo per il proseguimento del tuo lavoro questa mattina. Dicevamo prima, grazie allora a tutti e che ritorni domani, Nicoletta, non è un segreto, un assist perfetto per il tema che andremo ad approfondire tra poco, perché parleremo con il dottor Francesco Aquilar proprio di segreti. Secondo una recente ricerca della Columbia University, ognuno di noi ne ha in media almeno 13, ma attenzione perché farebbero male alla salute. A tra poco. Cuore e denari. Non lo dirò a nessuno, lo terrò lì nascosto, senza lasciare segno, il segno in nessun posto. E parliamo di segreti. Chi non ne ha mai avuto uno, magari perché costretto, a fin di bene, come si dice. Oggi parliamo di segreti perché una ricerca della Columbia University ci dice che almeno il 95% di noi, quindi praticamente tutti, ha dei segreti, ne teniamo chiusi nel cuore, in media 13 alla volta, e quindi anche un bel impegno emotivo. 5 di questi sarebbero davvero inconfessabili e quindi non ne avremmo mai fatto menzione a nessuno. Di questo ed altro parliamo oggi con il nostro ospite, il dottor Francesco Aquila, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale. Buongiorno e ben ritrovato, chissà quali sono i suoi, dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma certo, tutti noi abbiamo dei segreti che ci proteggono in alcune situazioni, perché mantengono la libertà dai controlli e qualche volta consentono di poter utilizzare una piacevole sorpresa. Però sono d'accordo con i ricercatori della Columbia University, i segreti fanno male e quindi bisognerebbe almeno dirli ad una persona. Il punto è trovare la persona di cui fidarsi. Esatto, ma come avranno fatto a quantificare il fatto che ne abbiamo almeno 13 a testa, cranio, dottor Aquilar? È il solito problema delle indagini psicologiche, in questo caso psicologico-sociali, perché naturalmente si fanno dei questionari ai quali devono rispondere delle persone e avranno probabilmente calcolato che le persone in media riuscivano a descrivere 13 segreti, certo. Ma ovviamente quando si fanno queste indagini le persone mentono. E quindi i segreti potrebbero essere di più, potrebbero essere di meno, esatto. Potrebbero essere altri. 13 è peraltro sempre una media, naturalmente, dei tratta dai racconti delle persone censite, e quindi ci potrà essere chi ne ha 3 e chi ne ha 30. E quindi anche dai racconti e dalle risposte al questionario, che probabilmente mi immagino che ci sia stato, dove è ancora più facile mentire, perché l'idea di chi risponde al questionario è di cercare di salvaguardare la propria immagine di sé, non rispetto agli altri, perché l'anonimato viene sempre garantito, ma proprio rispetto a se stessi. Alcuni segreti sono talmente inconfessabili che non li dico nemmeno a me stesso, così faccio finta che non ci sono. So che lei peraltro non è molto d'accordo sul fatto di non dire proprio a nessuno il segreto, ma se è tale, come dire, tale deve rimanere dentro di noi, o quantomeno è autorizzata la confessione a qualcuno, dottor Aquila. In che misura fa bene qualche volta condividerlo, e quando invece ci si spinge al punto individuato dai ricercatori della Columbia, che dicono tenere i segreti fa male alla salute? Assolutamente sono d'accordo che tenere i segreti fa male alla salute. Un segreto troppo a lungo tenuto si incista. Possiamo tenerlo per un po' di tempo, ed è anche il motivo per il quale da 2000 anni nella tradizione cristiana viene raccomandata la confessione, che dal punto di vista psicologico è un modo per poter raccontare con tutte le protezioni del caso, almeno ad un altro essere umano, le nostre situazioni più buie e inconfessabili. Quindi in realtà il sollievo che viene spesso riferito dal raccontare un segreto è particolarmente gradevole per le persone, e inoltre quando noi abbiamo troppi segreti non ci sentiamo amati, perché l'interlocutore non conosce una parte di noi e quindi ama un'immagine di noi che non corrisponde, certo, alla realtà. Anche per sentirsi più amati conviene raccontare i nostri segreti. Ma a parte gli aspetti emotivi, dottor Aquilar, ci sono anche proprio degli effetti di carattere ormonale sul mantenimento dentro di noi dei segreti. Quali sono? Assolutamente sì, nel senso che tutto quello che è emotivo nel nostro corpo diventa biochimico. Come dire, l'errore di Cartesio di dividere la res cogitans dalla res extensa è stato più volte ripetuto dai neuroscienziati in tutti questi ultimi anni come un errore da non ripetere. Tutto quello che noi facciamo emotivamente diventa corporeo, diventa fisico, diventa biochimico, e quindi in questo senso si incista letteralmente il segreto che manteniamo dentro di noi. Allora, tra l'altro stavo pensando anche al tema di cuore che abbiamo affrontato prima della nostra chiacchierata con lei, il tema del fumo. Abbiamo parlato dell'invito che abbiamo fatto a smettere di fumare alle persone all'ascolto. Nicoletta questa mattina incontrava con molti medici anche gli studenti delle scuole di Milano. Magari c'è qualcuno all'ascolto che ci ha provato a smettere, qualcuno ci è riuscito, qualcuno invece continua a ricadere e non lo confessa alla famiglia. Ma questo per arrivare a chiederle, dottor Aquilar, ci sono segreti e segreti, come ci sono bugie e bugie, ci sono quelle bianche, quelle innocenti, quelle un po' più pesanti, ci sono i segreti che teniamo nel cassetto a mo' di sogni e di progetti futuri, quindi in realtà il segreto non ha sempre un connotato negativo, qualcosa che si vuole nascondere perché non è un tema positivo da affrontare con gli altri. In realtà può nascondere anche una progettualità, un lato, un risvolto bello, no? Certamente, come dicevo prima, a volte i segreti consentono una piacevole sorpresa per le nostre persone care. In questo senso il segreto breve è molto carino, mentre invece, a proposito del fumare, non so se l'avete già citata, la famosa frase di Mark Twain che diceva: smettere di fumare è la cosa più facile del mondo, io stesso l'ho fatto centinaia di volte. Senta, per forza di cose, almeno ad una persona bisogna confessare il segreto, no? Ma il tema è scegliere la persona giusta con cui farlo. Lei, come medico, insomma, prescrive anche delle indicazioni precise in questo senso? Come si fa a scegliere la persona giusta? Come psicologo posso aiutare le persone a selezionare qualcuno di cui loro si fidano. E anche per il segreto, come per le altre cose, la fiducia è connessa all'argomento. Nel senso che devo trovare la persona che sia in grado di registrare il segreto, di mantenerlo, di non diffonderlo e di non farmi sentire deluso dal fatto che pubblicizza quel segreto che gli ho detto. Magari di questa persona su altre cose potrei non fidarmi, ma su questa devo essere in grado di potermi fidare. Ancora una volta l'insegnamento passa attraverso il riconoscere le emozioni, perché le emozioni sono delle forme di conoscenza molto potenti che, una volta che le persone riescono a leggerle, ci dicono abbastanza chiaramente verso quale persona siamo spinti, e dobbiamo poi scegliere il momento per raccontare il segreto e anche proteggere noi stessi mentre stiamo raccontando il segreto, perché mentre si raccontano i segreti molte persone provano una violentissima vergogna per paura che a causa di quel segreto l'altra persona si escluderà dalla amicizia, dalla vicinanza e dalla fiducia. Certo, dottor Aquilar, fra un po' devo salutarla, ma si parla anche di segreti nel libro Condividere i ricordi? Sì. si parla di segreti perché molto spesso i ricordi sono collegati ad esperienze dolorose che le persone hanno una grande vergogna nel raccontare, nel rivedere, e quindi sicuramente tra condivisione dei ricordi e condivisione dei segreti c'è molto collegamento e possiamo essere sollevati sia condividendo i ricordi che condividendo i segreti. Dottor Aquilar, noi la richiameremo senz'altro presto, questo è veramente un tema interessante per i nostri ascoltatori, non abbiamo fatto in tempo magari a fare un commento sulle come si reagisce quando si scopre un segreto, quando si viene smascherati dai propri segreti, anche questi temi molto interessanti, e quindi la richiamiamo presto. Intanto le auguro una buona giornata. Grazie e buona giornata a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a Marco Lombardo e Laura Vanossi per l'assistenza in redazione per questa puntata super speciale. Grazie anche a Paolo Corleoni. Noi adesso diamo la linea alla regia. Cuore Denari torna domani. Buona giornata a tutti.